perché non vuol, non, mangiare bene non vuol dire mangiare male. Quindi aglio senza, senza l'anima praticamente. Dobbiamo farmi mancare il nutraceutico. Ma perché, come mai? Ma perché? In cucina non ci entro mai. Se rinasco, rinasco cipolla, perché mi, mi sembra che sia perfetta. Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa rovina qua? Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Ma se affermi un'idea che ti apre una via e la tieni con te, come segui la scia, risalendo vedrai quanti cadono giù. Secondo l'Istat sono oltre 4 milioni gli italiani che hanno la fortuna di festeggiare Natale, la festa del dono e della vita, tutto l'anno. Sono volontari, gli acrobati della generosità, persone assolutamente normali, padri di famiglia, mamme, pensionati, ragazzi, che dedicano una parte del loro tempo a fare qualcosa di utile per gli altri. Il prossimo può avere il volto di un anziano, di un malato, di un disabile, di un senza tetto, di un bambino. Spingono carrozzine, distribuiscono pasti, regalano ascolto, gesti, sorrisi e sono ripagati a volte da uno sguardo, da un sorriso, da una parola. Basta questo. Ma chi sono in realtà i volontari? Che cosa hanno di diverso? Perché cosa li spinge soprattutto a ritagliare spazi del loro quotidiano da condividere con persone che non sono legate a loro da legami di sangue, di amicizie, da parentela? Allora, se siete volontari, siete invitati a darci una risposta raccontandoci la vostra esperienza, ma chiamateci anche per raccontarci se l'incontro con un volontario ha cambiato o aggiunto qualcosa alla vostra vita. Magari qualcuno è venuto a trovarvi quando eravate malati, oppure vi ha ascoltato quando nessuno sembrava avere il tempo di farlo, o vivete grazie al dono di qualcuno, sto pensando a chi ha bisogno di sangue ad esempio, ho potuto fare un intervento proprio grazie a questa disponibilità. 800 24 00 24, credo che questo sia un buon modo per farci gli auguri della vigilia. Ma per quelli che il tempo, come si dice, sempre tiranno, niente paura, si può essere volontari grazie ai finanziamenti diretti che passano attraverso donazioni spontanee che possono essere effettuate o presso i centri di raccolta che spesso le associazioni allestiscono nelle piazze, nelle strade delle città, o attraverso pagamenti su conto corrente o anche attraverso la donazione del 5 per 1000. Ne parleremo nella seconda parte del programma. Ora passo a presentarvi la futura Mrs. Exclusive, Grace Campbell. Eccola qua! Guardatela! Non è bellissima! Ha appena donato il sangue e ne ha ancora abbastanza per arrossire come una mammola. Eh sì, dietro ogni grande uomo c'è una donna che alza gli occhi al cielo, gente. Sono Bruce Nolan per Eyewitness News con tutti gli amici qui della donazione di sangue che vi ricordano... Sì, il tuo miracolo! Oggi verranno a trovarci molti ospiti e io vi ringrazio perché ci state già chiamando, 800 24 00 24, grazie di cuore. Allora, due ospiti sono già in studio con me per festeggiare un pezzo di vigilia, li ringrazio molto, la dottoressa Tatiana Torti, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale presso il Dipartimento di Neuroscienze Cliniche della Casa di Cura Villa San Benedetto Menni, buongiorno. Buongiorno. Di cui è direttore scientifico... Abbrevio, dottor professor Perna, ecco, che è anche un amico di Cuore e Denari. Allora, dottoressa Torti, a guardarli dal di fuori sembrano delle persone speciali, dotate di una marcia in più del gene dell'altruismo e della generosità. Che cosa hanno di diverso e che cosa li spinge a farsi altro? Beh, diciamo che sono persone in realtà normalissime che però per quello che fanno diventano, possono diventare anche degli eroi. Effettivamente, se noi parliamo con le persone che hanno ricevuto delle azioni di volontariato, poi queste persone stesse descrivono queste persone come i loro eroi, ringraziandoli, e quindi questa è una cosa fondamentale, e portandoli nel loro cuore per sempre. Quando parliamo di volontariato parliamo di relazioni di attaccamento. Quindi molto forti, molto intime, a volte private. È chiaro che dipende dal tipo di volontariato che si fa, questo è vero. In ogni caso si sviluppa questa forma di attaccamento molto molto viscerale. E c'è una cosa molto bella, che fare del bene, e adesso i nostri amici ce lo racconteranno, perché aiutare gli altri cambia prima di tutti noi stessi, ma fare del bene aiuta anche a noi. Ci sono delle ricerche molto interessanti, tra le tante ne segnaliamo una. Andiamo. Far del bene fa stare meglio, lo conferma anche la ricerca. Secondo un'ampia revisione di 40 studi pubblicata sulla rivista BMC Public Health, si dimostra che occuparsi degli altri e spendersi in attività benefiche non è vantaggioso solo per chi riceve le nostre attenzioni, ma anche per la nostra salute. Il volontariato, infatti, aumenta il benessere generale, allontana il rischio di depressione, ci rende più soddisfatti di noi stessi e addirittura potrebbe allungare la vita. La speranza è che un numero sempre più nutrito di persone si avvicini a queste attività. In Europa la prevalenza del volontariato fra gli adulti si ferma attorno al 22%, negli Stati Uniti sale al 27% e in Australia addirittura al 36% della popolazione. Visto che aiutare gli altri è un'iniezione di benessere, è auspicabile che il numero di volontari cresca sempre di più, per il bene loro e degli altri. Vogliamo fare un commento a professor Perna, anzi deve farlo lei perché è lei l'esperto della mente. Che cosa si attiva? Allora, innanzitutto non è che alcuni sono predisposti e altri no. Tutti siamo predisposti perché i due principali scopi di un essere vivente sono la sopravvivenza personale e quello della specie. Quindi tutti noi difendiamo la specie vuol dire gli altri, sì. Quindi in qualche maniera per fortuna tutti possiamo diventare volontari. Poi è vero che esistono alcune persone più o meno predisposte, dovute a fattori genetici da una parte, ma anche ambientali, educativi dall'altra. L'altra cosa importante è sapere che in fin dei conti il nostro cervello, quello veramente umano, è la parte frontale. La parte frontale dice una cosa precisa, rinuncia al piacere attuale per la vita eterna in qualche maniera, per il futuro. Quindi noi impariamo a comportarci rinunciando all'egoismo personale del qui e ora, perché cosa? Un beneficio più lungo termine. Quindi è verissimo quello che dice, il fatto che faccia bene alla salute e al futuro di ognuno di noi, l'altruismo anche chimicamente è qualcosa di ormai molto assodato. Voglio leggervi subito il messaggio di Antonio. Mio nipote è stato in ospedale 10 giorni, tutti i giorni volontari, clown, animazione, giochi, regali, ed è stato bellissimo. Voglio presentarvi gli amici che ci sono venuti a trovare oggi e poi darò naturalmente subito la parola ai nostri ascoltatori. Qua vicino a me ho voluto Miriam. Io e Miriam siamo sempre vicine perché siamo compagne di banco a Radio 24, infatti lei lavora qua. Ciao Miriam. Miriam, ciao, Rucchetti. Però quando esce di qua Miriam trova il tempo per dedicarsi agli altri e ci racconterà. In linea con noi è un amico, Aldo Zino Caligaris. Ciao Aldo. Ciao Aldo. Buongiorno Nicoletta, buongiorno e buone feste. Presidente FIDAS, Federazione Italiana Associazione Donatori di Sangue e Coordinamento Civis. In linea abbiamo anche Eugenio Bernardi, che è responsabile della comunicazione, vicepresidente Abio, l'Associazione per il Bambino in Ospedale. Buongiorno anche a lei e benvenuto. Buongiorno anche a voi, grazie. Abbiamo scelto tre forme di volontariato tra loro molto diverse, vorrei dire quasi tre gocce in questo mare di solidarietà che è grande e variegato. Aldo, voi non siete eroi, eppure donate qualcosa di molto speciale, vitale e unico, che non si può fabbricare. Eh sì, donare il sangue, donare i suoi componenti praticamente significa fornire la materia prima per una terapia trasfusionale, una terapia insostituibile che oggi non si può produrre in industria o nei laboratori farmaceutici, E devo dire che i numeri ci danno l'importanza di questo gesto di dono responsabile, volontario e soprattutto anonimo. Ogni giorno vengono effettuate oltre 8.500 trasfusioni nel nostro paese, in Italia, e possono avvenire soltanto grazie a questo gesto di volontariato, a questo gesto di disponibilità di tante persone che primo lo fanno con un grande senso di disponibilità, con un percorso di formazione, con responsabilità, perché donare il sangue per poter donare una terapia sicura e disponibile per i cittadini bisogna farlo in maniera responsabile, ma soprattutto credo lo si faccia e lo fanno i donatori di sangue per un grande senso di partecipazione civica a quello che è il tessuto sociale del nostro paese. Grazie Aldo, io passerei a Miriam. Tu sei una ragazza giovane, sei la mia compagna di banco, quindi siamo fortunate, però quando esci di qui trovi il tempo per salire a bordo di un'unità mobile e vai a trovare le prostitute, le trans, le donne di malaffare come venivano chiamate. Che cosa ti ha fatto scattare questo click? Ma io in realtà, parlo proprio per la mia esperienza, volevo in qualche modo visitare i bassi fondi della vita, cioè io volevo conoscere delle persone oltre una categoria, delle storie oltre uno stigma sociale, volevo proprio incontrare anche chiaramente delle persone che hanno fatto delle scelte o che hanno avuto delle vite... Sono costrette a farle. Ecco. Sì, o completamente differente dalla mia, e il desiderio primario è proprio quello di incontrare delle persone che poi alle volte magari sono persone che non hanno voglia quella sera di parlare con te, che magari anche a volte ti rifiutano, e altre che invece ti accolgono, sono felici di vederti. Chiaramente... Mi sembra, dottoressa Torti, che Miriam abbia detto una cosa importante. Tante volte noi abbiamo voglia di donare, però abbiamo paura che l'altro ci rifiuti, e nel volontario c'è anche questa... No, questo regalo, cioè di nonostante tutto non sentirsi rifiutato, anche se apparentemente l'altro ti spinge fuori. Teniamo presente che l'essere volontario non vuol dire superare i limiti del rispetto personale, quindi dobbiamo essere capaci di entrare davvero in empatia con la persona che abbiamo di fronte, anche se stiamo e soprattutto se stiamo donando attenzioni e comprensione. Quello che dice Miriam in realtà apre un aspetto fondamentale, che è la capacità di aprire la mente, la curiosità che il volontario deve avere per dimensioni che forse non gli appartengono fino in fondo, ma che tuttavia può capire, perché ripeto, noi siamo dotati dell'empatia che va di pari passo con l'altruismo. Io posso essere altruista se sono empatico. Tutti siamo empatici, è vero, ci sono delle differenze individuali, però ecco cosa si mette in campo, questa caratteristica. La puntata di oggi vuole parlare dei volontari, ma vuole dare anche l'opportunità a ciascuno di noi di guardarsi dentro. Tante volte noi abbiamo bisogno di qualcuno, abbiamo bisogno di qualche cosa, vorremmo chiedere, abbiamo bisogno di aiuto, ma non osiamo chiederlo per una serie di ragioni che vanno dalla paura, dalla timidezza, da quella timore che abbiamo tutte le volte che dobbiamo mostrare delle nostre fragilità. Io penso che questo sia un po' l'altra faccia della puntata di oggi. Parliamo di chi dona, ma vogliamo parlare anche di chi non riesce a chiedere aiuto. Saluto Eugenio Bernardi. Bernardi, spesso si dice, no? I bambini sono proprio la vita. Vederli soffrire non è possibile, un dolore troppo grande, un'ingiustizia, mi si stringe il cuore, no? Invece voi trovate il coraggio di sedervi accanto ad un bambino senza capelli magari perché li ha persi per la chemio, di giocare con lui, di dare modo alla sua mamma di uscire, di andare a bersi un caffè fuori, lo sostenete quando la situazione è proprio in salita, sembra... Ecco, dove trovate questo coraggio e che cosa spinge i vostri volontari a dedicarsi ad un tipo di volontariato, se vogliamo, così difficile, no? Così... Certo. Beh, la risposta non è facile, perché ognuno ha le proprie motivazioni personali, come è facile immaginare. C'è chi magari lo fa perché, come me, io sono fortunato, ho due figli che godono di ottima salute e ho pensato di restituire restituire, un bel giorno pensare di restituire un po' di questa fortuna a qualcuno che ne ha avuto di meno. Qualcun altro magari ha avuto un figlio ricoverato e magari siccome è entrato in contatto con i nostri volontari, uscito dall'ospedale, ha fatto il corso di formazione per diventare lui stesso volontario ABI. Quindi le motivazioni sono tante. Io personalmente non credo all'eroismo, sono d'accordo su tutto quanto quello che è stato detto prima, compreso la ricerca che quando afferma che fare del bene fa anche bene, perché ho sempre detto che nel voler fare il volontario c'è un pizzico di egoismo, perché chiaramente la soddisfazione di aver fatto qualche cosa di utile è quasi egoistica, se vogliamo, no? Volendo estremizzare il concetto. Ma sono d'accordo su tutto quanto, salvo il fatto che noi siamo degli eroi, perché in fondo siamo soltanto persone normali che, come lei ha detto, cercano, nel nostro caso, di rendere meno traumatico possibile un momento veramente difficile per la famiglia, spesso magari banale, perché magari è un ricovero di poche ore, ma più spesso purtroppo sono situazioni drammatiche, ovviamente di ricoveri lunghi e per situazioni molto molto difficili ed estreme. Cerchiamo soltanto di rendere meno traumatico possibile questo ricovero, stando vicino al bambino e all'adolescente e soprattutto sostenendo la famiglia, aiutandola appunto in una fase di transizione molto difficile, facendo un po' da filtro con i medici, distraendo il bambino, ascoltandolo, insomma stando con lui e facendo in modo che il reparto dell'ospedale sia quasi un pezzo di casa, una prosecuzione della casa. Un ascoltatore ci sta scrivendo al 349-238-6666: faccio volontariato per egoismo, oltre a fare bene agli altri fa tanto bene a me, e ci augura buon Natale. E buon Natale le auguriamo anche a Daniela, che ci chiama da Treviso, e a Mario, che ci chiama da Brescia. Daniela, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Io volevo raccontare l'esperienza che stiamo vivendo noi qui nel nostro paese. Allora, praticamente circa una dozzina di anni fa, la Caritas, il Comune e il COSPES, che è un ente di formazione dei salesiani, sì, hanno dato vita alla leva civile. Noi la chiamiamo un progetto, nel senso che la caratteristica è di adattarsi a quelli che sono i bisogni che ci sono nel nostro paese. È cominciato con il punto solidale, per cui si raccoglie cibo e viene distribuito alle famiglie che sono in crisi, e poi abbiamo il sostegno scolastico, per cui andiamo nella scuola e assieme ai professori e via, aiutiamo i bambini che hanno difficoltà nella scuola. C'è il sostegno anziani, per cui andiamo a trovare le persone che sono sole, praticamente facciamo loro compagnia, magari facciamo la spesa, li portiamo certo. Le vicine, questo genere. E poi abbiamo il centro d'ascolto, che è quello che serve un po' per capire i bisogni delle persone che si rivolgono a noi. Un'organizzazione direi a 360 gradi. Vi fate, siete diventate mamme, figlie, sorelle, professor Perna. È veramente un'organizzazione capillare quella che ci descrive Daniela, sì. Che parte, è bella perché unisce anche il paese, immagino. Parte dal cuore, no? Questo è importante. Importante è quando uno fa il volontariato non partire dalla testa, cioè a me è capitato di vedere gente che lo dica poi uno psichiatra, vero? Che di solito dite che parte tutto sempre da lì, adesso a Natale mi dice che parte dal cuore, questo mi piace. Qualcuno fa del marketing, allora qualcuno fa il volontariato per mostrare agli altri quanto è bravo, allora questo non è volontariato, questo è marketing, e questo ovviamente è assolutamente da comunque considerare non un esempio. Bisogna partire dal cuore, bisogna essere anonimi, bisogna avere il coraggio di essere esattamente come ha detto la persona, non degli eroi per noi stessi, ma delle persone umane, perché il volontariato è essere umani. Non essere volontari sotto sotto vuol dire alla fine non avere il coraggio di essere profondamente umani. Andiamo a Mario, che ci chiama da Brescia. Buongiorno Mario, benvenuto. Buongiorno a tutti. Buongiorno Mario. Lei è un runner. Io sì, sono un runner. Me l'hanno spifferato dal centralino, non è che ho i poteri. Sono appassionato di corsa, e la cosa che facciamo noi è un po' diversa, no? Qualche anno fa, copiandolo da un'altra città, abbiamo trasferito a Brescia questa bellissima manifestazione, abbiamo creato a Brescia questa bellissima manifestazione, si chiama Corri per Brescia. In pratica lo facciamo ovviamente esclusivamente per volontariato, aiutati pienamente dall'amministrazione pubblica, quindi dal Comune di Brescia. Portiamo a correre e camminare, ovviamente, sì, le persone ogni settimana in centro storico Brescia. È un'attività no profit al 100%, è una macchina organizzativa che oggi conta circa più di 80 persone, tra comitato organizzatore, consiglio, volontari vari che si danno a fare in tutti i modi. Perché non è semplice, ci vuole, vedi, no, ci vuole. No, non è semplice, ci vuole, diciamo, molta costanza, un lavoro, è un secondo lavoro no profit, sottolineo, che coinvolge ognuno di noi. A proposito di quello che avete detto prima, spesso uno dice non ho il tempo, non è vero, il tempo lo si trova. Io lavoro e sono un appassionato di running, taglio un po' la famiglia, un po' alla passione del running, ovviamente non al lavoro. È un po' di rinuncia, un po' di rinuncia bisogna. Da una parte, un po' dall'altra, per mettere in piedi e vedere tanta gente che ogni giovedì corre a Brescia e cammina. È una grande soddisfazione. Avete presente che noi oggi abbiamo più di 1.200 iscritti e in questa stagione vengono a correre e camminare circa 600 persone. Tra l'altro, Mario, corrono e camminano e fanno bene sia al cuore che al cervello, professor Perna. Assolutamente sì, ovviamente l'attività fisica regolare oggi è un gold standard del benessere fisico e mentale, quindi non solo fanno bene in termini di volontariato, ma fanno proprio bene, nel senso insegnano una delle pratiche del benessere più importanti del mondo moderno. Grazie Mario, buona passeggiata, buona corsa. E io volevo chiedere agli volontari che sono intervenuti, che sono in linea con noi, e quindi ad Aldo, Eugenio, a Miriam, di lasciarci con un pensiero, una storia, un messaggio, un invito, una raccomandazione. Fateci insomma gli auguri di una buona vigilia. Aldo, inizio da te. Allora Nicoletta, credo che il dono sia l'espressione più bella e il senso più vero della solidarietà e della vicinanza agli altri. Dare qualche cosa di sé agli altri, dare del tempo, dare qualcosa di sé come il sangue, dare qualcosa come le proprie capacità, le proprie risorse, il proprio sorriso, la propria disponibilità, credo che sia il dono più bello. Stiamo preparando in questi giorni pacchetti e regali per i nostri più cari amici, per i nostri familiari, ma credo che questi doni che possiamo offrire agli altri, soprattutto a chi non conosciamo, sono l'espressione più vera di quella nostra umanità, di quel senso di relazione che ci unisce al mondo intero. E con questo credo che sia un bellissimo messaggio per il Natale. Quindi buone feste a tutti. Buone feste dal Dozzino Calligaris. Grazie per essere stato con noi. Ricordiamo che basta avere 18 anni, Aldo, per certo diventare donatori. Ricordiamo rapidamente i requisiti. 18 anni, buona salute. Essere in buona salute, pesare almeno 50 kg, recarsi presso un servizio trasfusionale o un'unità di raccolta associativa e prendere visione delle condizioni per poter fare una donazione responsabile, essere sottoposti a un controllo, e questo è l'aspetto poi, come si diceva prima, che fare del bene agli altri fa anche bene a se stessi. Donare sangue è un ottimo modo per tenere sotto controllo la propria salute e per poter fare anche a volte un'ottima medicina preventiva. Grazie, grazie, tanti auguri, buon Natale. Altrettanto grazie a voi e a tutti gli ascoltatori. Eugenio Bernardi. Allora, lei passerà un po' del suo tempo in queste vacanze di Natale con i bambini? Sì, certamente. E, ci vuole... Cercando di fare in modo che Natale sia non soltanto oggi e domani, ma che sia tutti i giorni. Ecco, fondamentalmente questo è il compito che ci siamo presi come volontariato, di fare in modo che tutti quanti i giorni i bambini possano ricevere, quando non un regalo fisico, quantomeno il nostro tempo, il nostro sorriso, la nostra attenzione, anche perché già soltanto ascoltare un bambino è importante, perché i bambini comunque anche in ospedale, anche in situazioni difficili, comunque vogliono essere, come dire, continuare ad essere dei bambini, quindi vogliono giocare, essere ascoltati, non essere presi in giro e vogliono sapere che cosa sta succedendo intorno a loro. Nello stesso tempo cerchiamo di fare in modo, come dicevo prima, che anche per le famiglie, invece di essere un momento felice, come dovrebbe essere se tutta l'altra famiglia finita a casa, certo, cerchiamo di in qualche modo cercare di regalargli un pochino di questa felicità facendo insieme a loro Natale in ospedale, ma ripeto, un Natale che dura 365 giorni l'anno. Questo mi sembra che sia un augurio veramente importante, un Natale che, come abbiamo detto noi in apertura, ci sono persone che festeggiano e possono festeggiare il Natale tutto l'anno. E Miriam, prima che tu torni alla tua scrivania accanto a me, che la mia è molto disordinata, la sua invece è proprio una scrivania fatta per bene, io. Miriam, una ragazza giovane che ha fatto una scelta forte e che porta il suo tempo, il suo ascolto, la sua voglia di diventare altra, delle persone che hanno una situazione di vita molto difficile. Che cosa ti ha insegnato e perché lo suggeriresti anche e soprattutto a dei ragazzi e delle ragazze giovani come te? perché è fondamentale non giudicare l'altro, qualsiasi cosa la vita l'abbia portato a fare. E quindi io credo, faccio mio il messaggio che poi è dell'associazione per cui sono diventata volontaria, che è il NAGA, che è qui a Milano, che certi diritti, come il diritto per esempio alla salute, sono diritti di tutti e inalienabili, siano essi stranieri, irregolari, certo, e non, rom, trans, prostitute, chiunque. Ma è fondamentale, secondo me, perdere l'atteggiamento giudicante. Questo, ecco, il non giudicante, il professor Perna lo conosce bene, no? È anche quello che un po' di cui abbiamo parlato in una trasmissione, infatti, tra l'altro con Tetsugen Serra, che insegna un po' questa accettazione dell'altro. Io ringrazio Miriam, ringrazio Aldo, ringrazio Eugenio, altri amici ci verranno a trovare, noi però ci facciamo una pausa e ritorniamo insieme. Intanto 800 24 00 24, venite a trovarci, portateci la vostra storia, anche la vostra debolezza, la vostra paura. Non è sempre facile ricevere e chiedere aiuto. Cuore e denari. Tempo, comunque vadano le cose, lui passa. E se ne frega se qualcuno è in ritardo, puoi chiamarlo bastardo, ma intanto è già andato. E fino adesso niente l'ho mai fermato. E tutto più forse lo hai misurato con i tuoi orologi di ogni marca e modello. Ma tanto il tempo resta sempre lui quello. L'unica cosa che c'è data di fare è avere tempo da poter organizzare. Se da organizzare da dividere. Non ho tempo, non posso, non ce la faccio. Non c'è problema, perché si può aiutare anche attraverso le donazioni. Oltre al 5 per 1000 esistono diversi strumenti di finanziamento indiretto, di onlus e di associazioni, dalle bomboniere solidali per una laurea, per un matrimonio, per un battesimo, a iniziative come la vendita di piante, le azalee, le stelle di Natale in occasione di specifiche festività. Avete mai partecipato a queste iniziative? 800 24 0024. Ci sono quelli che danno poco del molto che hanno e lo danno per ottenere riconoscenza, ma questo segreto di desiderio guasta i loro toni. E ci sono quelli che hanno poco e danno molto. Sono quelli che credono nella vita e nella generosità della vita. E il loro scrigno non è mai vuoto. Ci sono quelli che danno con gioia e quella gioia è la loro ricompensa. E ci sono quelli che danno con dolore e questo dolore è il loro battesimo. È bene dare quanto si è richiesti, ma è meglio dare quando, pur non essendo richiesti, si comprendono i bisogni degli altri. Tutto ciò che hai, un giorno o l'altro, sarà dato via. Perciò, da adesso, così che la stagione del dare sia la tua, non quella dei tuoi eredi. Khalil Gibran. Ci siamo regalati questi versi straordinari che commuovono, toccano il cuore, con la splendida voce di Alessandra De Luca, che ringraziamo, perché una poesia eletta bene ti arriva ancora meglio. Volevo commentare un po' con i miei due ospiti queste scelte, no? Abbiamo parlato di tre modi diversi, assolutamente diversi, di farsi altro: dare il sangue, che può salvare davvero tante vite, avvicinarsi agli ultimi, come fa Miriam, oppure avvicinarsi a delle famiglie, aiutarli proprio a traghettare, a sostenere un passaggio così importante, che è devastante per una famiglia, come può essere la malattia di un bambino. Abbiamo voglia di fare, ma non sappiamo che cosa fare. Magari ci sono a trattenerci dal diventare donatore la paura del sangue, degli aghi, perché no? Oppure magari abbiamo paura di non essere all'altezza. Oppure vogliamo farlo, ma non sappiamo cosa scegliere: dedicarci ad una una linea d'ascolto, andare fisicamente, cioè farsi proprio, no? Utilizzare anche il proprio corpo. Come facciamo ad orientarci? Che cosa, il professor Perna diceva, lasciamoci guidare dal cuore, no? Tante volte però il nostro cuore è un po' confuso. Dottoressa Torti. Ci sono sicuramente delle caratteristiche di personalità, ma a volte forse il volontariato nasce proprio da situazioni esperienziali, quindi quello che più mi tocca, quello che più mi muove le emozioni, mi porta poi ad agire in un certo contesto. Generalmente nasce un po' così, no? Sì. Il contatto con esperienze specifiche o personali o casuali, sostanzialmente. Quindi questo è un po' l'approccio. Poi sicuramente c'entra la personalità, però è più l'esperienza, è più l'emozione che ci guida. Mi piace sottolineare un aspetto. Abbiamo sentito tante persone parlare e loro parlano di umiltà, sì, di rispetto. E allora forse c'è da ragionare sul discorso di come si impara a diventare volontari. È un percorso di apprendimento vero e proprio. Io mi approccio a una nuova realtà. Certo che inizialmente posso anche averne un po' paura, non so come orientarmi, come gestirmi, però questo lo imparo. Quindi bisogna avere pazienza in questo senso e sapere che sono abilità queste dell'ascolto e del riconoscere i bisogni degli altri che si affinano col tempo. E quindi vediamo le persone che ci stanno ascoltando e che magari non hanno voglia, sentono nel cuore il piacere di dedicarsi agli altri, ma sono in qualche modo trattenuti a provare a seguire i passaggi suggeriti dalla dottoressa Torti. Ma noi volevamo, insieme alla dottoressa Torti, proprio dare modo oggi alle persone che sentono di avere bisogno ma non sanno chiedere aiuto, di farsi questo regalo per Natale. Facciamoci un regalo anche per noi. Ammettiamo la nostra fragilità e andiamo magari da quell'amico, da quel parente, andiamo, tante volte dobbiamo andare anche molto più vicino, dobbiamo andare dal nostro compagno, dal nostro figlio e dirgli ho bisogno. Dottoressa Torti, questa è una cosa durissima, come si fa? È una cosa durissima perché fa scatenare questa paura del rifiuto, sì, fa scatenare la vergogna, il sentirsi imbarazzati rispetto a quello che si percepisce essere un difetto, no? Una fragilità, che poi difetto e fragilità non è, è un aspetto dell'essere umano assolutamente normale. Pensiamo come il corpo in qualche caso ha bisogno del medico, allora ci sono tantissime possibilità di bisogno e richieste di aiuto. Se noi cominciamo a capire questo e accettare di aver bisogno di aiuto, allora possiamo fare i passi che tu già stavi suggerendo. Quindi il primo è sicuramente accetto e consapevolizzo di cosa ho bisogno, qual è il mio bisogno. E poi scegliere delle figure di riferimento, quindi che possono essere quelle più vicine a noi oppure anche, non so, il medico di base, i centri di ascolto, come diceva la nostra ascoltatrice prima. Certo. E poi agire e quindi andare, facendo conti con l'autostima e il senso di autoefficacia. Io non sono meno efficace perché chiedo aiuto, forse sono più efficace rispetto a me stesso, perché mi permetto di migliorare. E spesso, se noi riusciamo, professor Perna, a fare questo sblocco, riusciamo a diventare anche persone migliori, perché io mi accorgo che spesso le persone che ci sembrano chiuse, poco gentili, aggressive, sono persone in realtà che soffrono, e spesso dietro a questa sofferenza c'è la sensazione di non venire ascoltati, capiti e amati. Ma è lì un po' un gatto che si morde la coda. Noi vorremmo sbloccarlo un po' per questo Natale, vorremmo fare questa piccola grande rivoluzione. Sbloccare vuol dire accettare di non essere onnipotenti. Il fatto che ognuno di noi dica io ce la faccio da solo è una bugia, perché come essere umano integrato con gli altri noi abbiamo bisogno degli altri. Quindi il passaggio di chiedere, no? Proprio farlo apposta, anche se io ce la faccio, ma faccio questo esercizio di chiedere agli altri, vuol dire semplicemente riconoscere che noi non siamo onnipotenti. Purtroppo spesso quando le cose ci vanno bene pensiamo di essere invincibili, tanto poi la realtà ci fa sempre capire che non è così. 800 24 00 24. Volevo leggervi il messaggio di Simona, che segnala che il 1 febbraio, giornata per la vita, fuori da tante chiese italiane ci sarà la vendita delle primule, il cui ricavato andrà ai centri aiuto alla vita, centri che aiutano le mamme in difficoltà che hanno dubbi sul portare avanti la gravidanza per i più disparati motivi. Altri ascoltatori ci scrivono che tutto ciò che non è donato è perduto, ma noi continuiamo con le persone che donano il loro tempo per, come diceva Baden Powell, il fondatore degli Scout, lasciare il mondo un po' meglio di come lo si è trovato. In linea con noi abbiamo il piacere di avere Nicolò, volontario della Ronda della Carità e della Solidarietà, che proprio questa sera parteciperà alla cena di Natale per i senza tetto presso la stazione Garibaldi di Milano. Nicolò, ciao, grazie e benvenuto. Grazie a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, Nicoletta, esatto, questa sera, come da tradizione ormai da un po' di anni, la Ronda della Carità e della Solidarietà di Milano organizza una messa per la vigilia, seguita appunto da un rinfresco organizzato e servito sia da volontari della nostra associazione, che sì, sono ormai quasi 50, sia da tutta una serie di volontari per un giorno, quindi cittadini milanesi che si sono resi disponibili per questa notte a dare una mano e prendere parte a questo ormai bellissimo evento. Senti Nicolò, però è vero che avete avuto talmente tante offerte di aiuto che ormai siete al completo, come volontari, vero? Come aiutanti. Sì, è vero, è un po' una tradizione che si segue di anno in anno. I volontari per la vigilia di Natale sono sempre tanti e anche per quest'anno abbiamo replicato, quindi sì, abbiamo raggiunto il numero massimo, ma di questo possiamo essere solo orgogliosi. Certo. Perché ci fa capire che la cittadinanza è coinvolta ed è attiva sul tema. Pensa, ti voglio dire, Nicolò, che è arrivato un messaggio a proposito, sai che se noi giriamo adesso per Milano, immagino anche per molte città, quando siete arrivati, c'è una città che sembra già proprio un po', no, vuota, sembra che tutti dormano e si siano un po' chiusi nelle loro case a pensare a sé. In realtà Nicolò ci racconta che ci saranno tanti volontari per un giorno, tanto che sono fuori numero massimo, ma ad esempio al Policlinico di Milano un ascoltatore ci scrive che è andato a donare il sangue, era il 50° donatore della vigilia, e allora ci fa tutti gli auguri a tutti i malati che con il gesto del donatore possano essere aiutati, e quindi è bello. Senti, non solamente per Natale naturalmente, Nicolò, bisognerebbe essere donatori. Tu come hai iniziato a diventare volontario? Che cosa ti ha spinto così giovane a darti agli altri? Io ho iniziato un po' per caso, nel senso che mi trovavo in Erasmus a Londra, in Inghilterra, e lì avevo iniziato appunto effettuando volontariato in quelli che loro chiamano shelter, che sono una sorta di dormitori per senza tetto. Tornato sì. dall'Erasmus sentivo il bisogno di dare continuità a questo percorso, quindi proprio casualmente una sera, tornando a casa dall'università, ho incrociato il camper di ronda, ho preso contatti con l'associazione e da quel momento lì non ho più smesso, e credo che nel breve periodo non smetterò di farlo, perché come dicevano appunto gli interventi anche precedenti, è qualcosa che tu dai sicuramente tanto, ma ricevi molto di più. Grazie Nicolò per essere stato con noi, buona festa di vigilia, buona messa e buon aiuto. Grazie, grazie a voi. Grazie, un abbraccio. Allora, sarebbe carino anche secondo me se arrivano tanti messaggi al 349-238-6666 di ascoltatori che ci scrivono che attraverso proprio hanno ricevuto una donazione e quindi la loro salute, la loro vita può essere stata salvata proprio da questo. Se avete una storia da raccontare, se un volontario, magari quando eravate ricoverati in ospedale, si è avvicinato al vostro letto, vi ha detto quella parola che vi è rimasta nel cuore, tiriamola fuori. 800 24 00 24, professor Perna. Mi racconto un episodio personale, sì. Che un volontariato egoistico. Mi sono trovato un Natale a non sapere cosa fare e non voler far nulla, per cui ho deciso di andare a trovare un orfanotrofio che era dietro la mia casa di origine, portando dei regali. Devo dire che l'egoismo è stato quello che avrei dovuto farlo tutti i giorni e non l'ho fatto, no? La sensazione è stata di quella del più bel Natale che abbia vissuto, nonostante le circostanze fossero le premesse molto negative. Per cui chiunque di voi abbia una negatività in corso deve sapere che può ribaltarla soltanto donandosi agli altri, non cercando altre scappatoie. Cuore e denari. Non so, pensavo che le persone che avrebbero chiamato sarebbero state in difficoltà come lo ero io. Tutto qui. E non è quello che succede? Non penso di aver aiutato qualcuno. Però basta una sola persona, sai. A un certo punto risponderai a quel telefono e la persona dall'altra parte avrà davvero bisogno di te. Telefono amico, come posso esserle d'aiuto? Non so se... Se ho fatto bene a chiamare, sto passando un periodo difficile. Ci sono dei momenti, dei periodi difficili. Il professor Perna, prima delle informazioni sul traffico, si è rivolto a tutte le persone, e io credo che siano tante le persone, perché parlando con amici e conoscenti c'è questo peso che avvertiamo un po' tutti nel cuore e non sempre riusciamo a metabolizzarlo. Allora, se abbiamo in questo momento il cuore pesante, siamo tristi, non richiudiamoci, usciamo. doniamoci agli altri, perché è questo, questo passaggio che ci sembra così faticoso può essere risolutivo, professor Perna. Ma ci sono tante persone, tanti, al di là di pazienti, i pazienti sono persone innanzitutto, che vanno in pensione, hanno difficoltà e chiedono: io cosa posso fare per ritrovare una motivazione al vivere? Fare volontariato è un consiglio, poi lo sanno, ma io cosa faccio? In fin dei conti ognuno di noi ha qualche cosa, ha imparato qualcosa nel corso della vita e può donare. Io posso fare il manager per una non profit, posso fare chi porta il tozzo di pane a chi sta male, ma qualcosa tutti noi possiamo fare, basta guardare la nostra storia personale. E voglio leggervi il messaggio di Matteo, che è proprio su, in linea con quanto il professor Perna ci raccontava. Lui ci scrive: sono consulente aziendale e imprenditore, non ho più tempo per volontariato extra, uso il mio tempo e professionalità per aiutare chi non potrebbe permettersi, con consulenze gratuite o contratti di lavoro spot, anche se non ne ho naturalmente bisogno. E quindi si mette a disposizione, uno magari non può pagare la parcella e lui ti aiuta. 800 24 00 24, questo per dire che ci sono tante diverse forme di volontariato, non necessariamente si deve far parte di un'associazione. In fondo è il tempo, l'ascolto, la nostra disponibilità, la nostra attitudine, no? Anzi, il nostro modo di accogliere l'altro. Non sottovalutiamo le piccole azioni, i piccoli gesti di volontariato che possiamo fare quotidianamente. Il vero volontariato probabilmente si definisce come un'attività di continuità, che prevede perseveranza, organizzazione. Però poi ci sono anche altre forme di volontariato che posso fare quotidianamente, e quindi in base a quello che io posso dare, posso donare. Franco, buongiorno, ci chiama da Padova e subito dopo andiamo a Bologna con Paolo. Buongiorno Franco. Buongiorno Nicoletta, buona festa a voi. Anche a lei Franco, grazie allora, per essere con noi oggi. È un po' fare la festa, la vigilia un po' con gli ascoltatori, questo mi piace. Allora, io voglio fare due considerazioni su quello che avete detto in precedenza. Io faccio parte, sono in pensione da qualche anno. Sì. Faccio parte di un'associazione, non so se la posso dire, qui della provincia di Padova. Ma certo. Si chiama Fiori di Cactus, è un'associazione che comprende un comune qua, sì, di Campo San Piero, dove io abito, e portiamo con dei pulmini gli ammalati del locale ospedale, li portiamo a Padova o a Treviso a fare la radioterapia, chemioterapia, eccetera. E posso dirvi quello che provo io, perché ho fatto... Grazie Franco, ci fa un regalo. Io guardi, posso dire della serenità che mi pervade quando vengo a casa, poi parlo con mia moglie e queste persone veramente ti danno molto, come dicevano anche gli ascoltatori precedenti. Questo è il primo punto. Secondo punto, la storia del 5 per 1000. Sì. Che lei prima si è soffermata qualche istante. Sì, ma perché sarà il tema di Cuore Denari, avremo proprio un esperto che ci spiegherà tutto per bene. E la storia del 5 per 1000 è molto comoda, perché le persone che qui al mio paese fanno il volontariato, poi sono le medesime che organizziamo le feste per gli anziani, organizziamo la fiera, sono quelli dei pulmino, alla fine queste persone siamo... diciamo coinvolti in vari reparti di volontari, no? Il 5 per 1000 è molto comodo a tutti perché ci lava un po' le mani. Sono, ti faccio la dichiarazione, non perdo il mio tempo. Ecco, però sa che Franco, sa che ci siamo promessi di non essere giudicanti. Quindi ciascuno, Franco, fa quello che può. Piccolo, grande, magari a me lei sembra un eroe e io le posso sembrare una che fa poco, ma insomma ciascuno trova dentro di sé la forza e l'equilibrio e le motivazioni per fare un passetto. Se vuole parlare del 5 per 1000, Franco, poi con tutti gli aspetti... Volevo chiudere a sto punto. A me quello che dà fastidio dei volontari, di noi volontari, sì, che delle volte ho degli amici così, no? Che cosa non le piace? Cosa non le piace? Ma io faccio volontario di qua di là e e si sente, diciamo, no superiore, però... Un po', quello, lo notava il professor Perna, ci sono persone un po' che si vantano, è marketing più che volontario. Non lo so, forse sono persone che magari fragili o sono talmente contente che sono riuscite a fare il volontario nonostante tutte le cose che magari hanno dovuto superare, vincere, eccetera, che amano dirlo. E prendiamo così anche loro. Grazie Franco da Padova, un abbraccio e andiamo a Paolo che ci chiama da Bologna. Buongiorno Paolo. Buongiorno, salve. Io volevo portare la mia esperienza, che è un po' variegata, sì, a differenza di quello che normalmente succede quando si fa volontariato, che si pone solo in una determinata circostanza o evento o associazione. Io faccio parte del gruppo degli alpini di Bologna, di conseguenza della protezione civile. Naturalmente lì c'è poco da elencare, tanto lo sanno benissimo tutti che appena succede in Italia la prima cosa che si vede è una penna nera. Io personalmente non sono un alpino, non ho fatto l'alpino, ma ci si può iscrivere anche se non hai fatto l'alpino in quanto amico degli alpini. Questa è una cosa che voglio sottolineare. Ah, grazie, perché dottoressa Torti, lei lo sapeva, io no. No. Ecco, si può diventare anche amici degli alpini, delle penne nere. Io so tutte le canzoni degli alpini, Paolo, perché sì, mia mamma, mio nonno era alpino e mia nonna e mia mamma me le hanno insegnate tutte, io le ho insegnate alle mie figlie, per cui noi siamo preparati. Quando vuole io canto. Da sul cappello. Un collaboratore che si chiama Bescapè, che è con Milan alla mattina. Vede? So che... Certo. La seconda cosa invece è un'associazione qui di un piccolo comune di Bologna che si chiama Galliera, che è un'associazione che aiuta i cani e gatti abbandonati. E, tra parentesi, oggi è la vigilia e stasera pomeriggio riportiamo a casa una gattina che è stata sterilizzata alle proprietarie, perché anche l'aiuto solo economico, certo, per quanto riguarda una sterilizzazione o comunque una malattia può essere importante. Assolutamente, abbiamo proprio dedicato ieri la puntata dedicata proprio agli animali. E quindi questa è la seconda associazione di cui è la terza? La terza è molto particolare, credo, perché è un'associazione sempre onlus, perché naturalmente stiamo parlando solo esclusivamente di onlus, quindi sì, persone, certo, che fanno tutto per niente. E è un'associazione romagnola, si chiama Romagna Air Finder, che praticamente ricerca e recupera i velivoli della Seconda Guerra Mondiale, ma soprattutto la cosa più importante è il fattore umanistico, perché in 14 anni di attività abbiamo già riportato le famiglie in tutto il mondo, 14 piloti che sarebbero rimasti se non nell'oblio insieme al loro aereo in un campo sperduto. E le famiglie a cui abbiamo riportato, potete immaginare l'emozione e i ringraziamenti di queste famiglie, parliamo Germania, America, Brasile, Sudafrica, Australia, Italia, le famiglie, il ringraziamento, ma soprattutto l'emozione che ci passano nel momento in cui facciamo cerimonie e poi dopo la sepoltura nel luogo in cui loro chiedono. Ecco, sono tre associazioni completamente diverse, che fanno cose completamente diverse, ma grazie al fatto di avere la mia compagna di vita che condivide con me tutte e tre le associazioni. Sì. E quindi non devo conoscere. Non deve dividersi, non deve giustificare. Esatto. Ecco. Perché anche i familiari non devono andare contro queste iniziative del tipo ma sei sempre fuori, ecco, ma me. Paolo ci ha raccontato veramente delle esperienze, no, che noi non conoscevamo, e quindi io la ringrazio, auguro a lei, alla sua compagna e alle persone a lei vicine un Natale molto felice, un Natale di cuore, sereno. Grazie Paolo. Grazie. Allora, il volontariato però lo sappiamo, ha tante formule, si può fare anche con un telefono. È il caso di Progetto ITA, che la conosciamo bene, l'Associazione Volontari per la Salute Mentale Onlus, che con la sua linea di ascolto cerca di dare aiuto e sostegno a chi soffre di depressione, ansia, attacchi di panico. In linea con noi il responsabile della linea di ascolto, Don Ebalmo. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta e buongiorno agli ascoltatori. Questo è un periodo di festa, ma non per tutti è così. Infatti per tanti italiani il Natale diventa un po' un'occasione di tristezza, è uno spettro, fa paura. Lo riscontrate anche voi attraverso la vostra linea d'ascolto? È facile, quando tutti gli altri sono felici, se noi non siamo felici la nostra tristezza diventa ancora più profonda. Ha proprio ragione Nicoletta, è un momento di emozione e quindi quando l'emozione manca, manca la presenza di persone vicine, già normalmente ci si sente già un po' tristi, chi poi soffre di disagio psichico ancora peggio e quindi noi cerchiamo di fare del nostro meglio proprio in questi giorni per venirgli incontro, cosa che già si fa normalmente, diciamo anche nei periodi feriali, ma in questo periodo ancora di più. In questi giorni ci può fare una fotografia, non so, delle persone che vi chiedono aiuto, un profilo? Sono più donne, uomini? Che cosa chiedono? Ma dal punto di vista del sesso, dell'età, non ci sono grandi differenze. Quello che chiedono, quello che aumenta in questi giorni sono quelli che chiamano dalla provincia, dalle case isolate, che sono in situazioni già difficili e solitarie di per loro stessi, in questo periodo ricorrono a noi proprio al massimo, ecco. Cuore e denari. Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. Dalle storie che i nostri amici ci stanno portando all'800 24 00 24, scopriamo che è il volontario che si fa un regalo donando tempo, ascolto, una parte di sé ad un altro. In linea con noi abbiamo ancora Odone Balbo, a proposito di linea, della linea d'ascolto di Itaca. Quale aiuto potete dare alle persone che si mettono in contatto con voi? E se vuole approfittare di essere con noi per lanciare un appello, una rassicurazione, un augurio, noi lo facciamo volentieri. Certo, signora Nicoletta, noi diamo fondamentalmente due tipi di aiuto. Sì. Uno è quello di accettare il loro sfogo, il loro bisogno di comunicazione quando partono da una situazione di solitudine, certo, oltre che di disagio psichico, e quindi li stiamo a ascoltare con empatia. Il secondo sono dei consigli. Molto spesso, soprattutto dalla provincia profonda, ci telefonano persone che non sanno come fare a curarsi, che hanno magari un familiare malato ma che non sanno cosa farne, certo, che si scontrano contro lo stigma purtroppo che esiste ancora oggi, e questo è un po' il mio appello. Il nostro sforzo è quello di far entrare nell'opinione pubblica il pensiero che chi soffre di disagio psichico non deve vergognarsi, non deve sentirsi colpevole in qualche modo, bisogna accettarlo per un malato, certo, così come sono malati purtroppo tanti altri, ma invece non è così purtroppo ancora. E quindi noi diamo con un database nazionale informazioni sulle strutture di cura pubbliche o private, privati, convenzionate col pubblico, e a seconda del tipo di patologia, della regione nella quale si trova la persona, cerchiamo di identificare l'associazione o l'ambulatorio o quello di cui lui ci chiede, insomma. Voglio ricordare il numero, un ascolto sempre in linea, 800 274 274. Grazie e auguri a Odone Balbo e ai volontari di Itaca. Buona giornata. Allora, noi sappiamo che gli italiani hanno il cuore grande, mettono anche spesso mano al portafoglio per sostenere progetti, iniziative, organizzazioni del no profit. Ne parliamo con Giampaolo Concari, commercialista, esperto di questioni fiscali del mondo no profit e animatore del sito www.quinonprofit.it. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, in questa puntata in cui ci sentiamo un po' tutti, no? Siamo tutti sintonizzati, come mi scrive un ascoltatore, abbiamo acceso un po' il cuore. Concari, quanto donano gli italiani e verso che settori sono particolarmente sensibili? Perché abbiamo detto chi non ha tempo, magari non riesce a superare alcuni blocchi, può comunque aiutare mettendo un po' mano al portafoglio. Ma le donazioni in Italia sono abbastanza diffuse un po' su tutti i vari le varie branche del terzo settore. Molto spesso la fanno un po' così da padrone, cioè sono i settori più beneficiati sono le organizzazioni che operano nel campo dell'assistenza sociale e sanitaria, poi organizzazioni non governative e una buona parte del volontariato è svolto anche verso le associazioni di, sportive, insomma più o meno siamo un po' tutti i settori sono toccati da queste donazioni, dalla beneficenza in sostanza. Dottoressa Torti, vale comunque, vero? Scusi? No, chiedevo alla dottoressa Torti, che ci sta accompagnando insieme al professor Perna, in questa puntata in cui vogliamo cercare di capire, non so, quali sono le motivazioni, anche le restituzioni dell'avvicinarsi ad altri, anche la donazione di denaro, magari è sembra, come sottolineava un ascoltatore, un modo un po' picchino per scaricarsi la coscienza, no? Dire non ho tempo, non me ne voglio occupare, do una piccola o grande somma di denaro. In realtà vale, uno strumento comunque molto valido, sappiamo che il denaro ci permette di fare una serie di cose, tra cui ricerche, trovare innovazioni per nuove cure, per esempio. In ogni caso, qualsiasi sia la forma di donazione, teniamo presente che ci aiuta ad ordinare i nostri valori, i valori umani. Ci dà questa mano, quindi capire cos'è importante per noi, sia che lo posso fare attraverso una donazione di denaro, che con un'azione, un gesto ripetuto, ma in ogni caso quello che ci torna è il sistemare i nostri valori. La serenità di cui parlava un ascoltatore prima, certo, è questa. Voglio dare la linea a Stefano, che ci chiama da Torino all'800 24 00 24, perché la sua storia aprirà gli occhi a molti di noi. Stefano, buongiorno, auguri. Buongiorno a voi, buongiorno, buongiorno. Eccoci qua. Buongiorno, eccoci qua. Sì, io sono, come tutte le mattine vi ascoltavo e mi sono riconosciuto ovviamente in quella fascia di beneficiari, di donazioni. E io circa un mese fa ho avuto una piccola donazione che mi ha consentito di passare dalla vita di strada, perché vivevo in maniera anche dignitosa, però vivevo in una roulotte, in una tenda, sì, in un parco, e è arrivata una piccola donazione che mi ha permesso di aprire una piccola bottega con dietro un'unità abitativa, banalmente una doccia, una cucina, un termosifone, e in un momento assolutamente inaspettato. Vedi, ecco, vedi, la donazione che può cambiare la vita e può dare la possibilità ad una persona di cambiare vita. Che cosa fa nel suo piccolo laboratorio, Stefano? Io aggiusto biciclette, è la passione di una vita che avevo in sospeso da molti anni, ed è bastato poco, perché poi aggiustando biciclette usate capisce bene che le biciclette arrivano già quasi integre, per cui bisogna con poco investimento si riesce ad aprire un laboratorio. Bravo Stefano, sono molto contenta, auguri e grazie per averci raccontato la sua storia. Vero Stefano, sì, è bello, e dire, lei ha detto veramente la parola che cambia un po', ne avevo bisogno, dottoressa Torti, e così Stefano ha fatto una restituzione. Beh, che ha completato che un po' il cerchio. È un caso proprio esemplificativo, noi sottovalutiamo in realtà come gli altri possano donare, la richiesta d'aiuto viene sottovalutata, perché io se chiedo aiuto nel 99% dei casi trovo qualcuno che l'aiuto me lo dà, e soprattutto in questi momenti di crisi economica numerose persone che io sento anche personalmente raccontano di questi atti di solidarietà, quindi non sottovalutiamo. L'altro aspetto che secondo me bisogna sottolineare è un atto di fiducia. Quando io dono devo comunque fidarmi della persona dell'altro, alla quale dono, e sapere che lui potrà mettere in atto delle azioni a sua volta, mi devo fidare, questa è una cosa importantissima, altrimenti mi limito e non dono. Prima di tornare agli aspetti fiscali delle donazioni insieme al dottor Giampaolo Concari, voglio salutare Laura Pellegrini, che è ufficio stampa dell'Associazione Giorgetti, un'associazione che si occupa di favorire la promozione culturale, sociale, umana di ragazzi in difficoltà. Buongiorno e benvenuta, auguri. Buongiorno Nicoletta e grazie per l'ospitalità. La vostra associazione si rivolge a ragazzi preadolescenti, adolescenti, sia in ambito scolastico che extrascolastico. Ci racconta esattamente che cosa fate? Ma fondamentalmente, appunto, come diceva, l'associazione si rivolge ai ragazzi preadolescenti che hanno più difficoltà di apprendimento, che hanno difficoltà relazionali e che quindi vivono una situazione, diciamo, faticosa e di disagio all'interno della scuola. Quello che facciamo, che i nostri volontari fanno, è affiancare in maniera continuativa questi ragazzi in un rapporto individuale o di piccolissimo gruppo, mm-hmm. aiutandoli proprio nell'attività scolastica, nelle ore, diciamo, extrascolastiche, quindi per esempio nel pomeriggio. O un'altra attività che facciamo è quella di portare i ragazzi al di fuori della scuola in attività come possono essere viaggi. Sì, cioè tutto quello che è scuola ma anche extrascolastico, che sappiamo è importante per la crescita del ragazzo. Ragazzi che, diciamo, preadolescenti, adolescenti in un'età abbastanza, no, particolare della vita. Cercate volontari. E questo vogliamo rivolgerci anche ai nostri ascoltatori, se avete desiderio, se vi sentite pronti per fare un po' da stampella ad un ragazzo adolescente o preadolescente, l'associazione Giorgetti cerca volontari che saranno formati, dottoressa Laura? Sì, fondamentalmente saranno formati, nel senso che in primo luogo c'è un colloquio iniziale di reciproca conoscenza. Poi ci sono degli incontri di formazione più specifica, ma che molto spesso, cioè in particolare, si basano sugli aspetti relazionali, certo. Perché poi gli aspetti didattici vengono, mm-hmm. sono forse un po' più semplici, mentre l'aspetto relazionale diventa fondamentale. Diciamo, la tipologia di volontario nostra è diciamo, persone che vengono dalla scuola, dall'esperienza scolastica, quindi magari professori, ma anche persone che escono dal mondo del lavoro, che spesso hanno anche avuto esperienze di... Perché come diceva il professor Perna, bisogna mettere a disposizione le proprie competenze, ma voi cercate, come tutte le associazioni, anche di raccogliere fondi, e lo fate con diverse iniziative. Cerchiamo di creare eventi appunto di raccolta fondi, come ad esempio adesso stiamo per festeggiare i 25 anni di attività dell'associazione, quindi faremo un evento dove inviteremo tutti i nostri soci e gli amici, cercando di fare qualche cosa di interessante, e cercheremo, insomma, unire cuore e denari. Ma volevo chiedere al dottor Concari, ha dei suggerimenti da dare alle associazioni, e sono tante, come l'associazione Giorgetti, che organizzano eventi per raccogliere fondi? Ci sono delle cose da sapere? Ma la prima cosa che mi viene in mente, a parte che ci sono dei consulenti molto preparati di me su questo aspetto, perché c'è tutta una branca del marketing del non profit che si occupa proprio di questo. Si occupa esattamente di questa cosa. Dal punto di vista fiscale, però, vale la pena ricordare che esiste una norma agevolativa contenuta nel decreto legislativo 460 del 97, è l'articolo 2. In cui si dice che le attività di raccolta fondi attraverso effettuate occasionalmente mediante cessione di beni di modico valore o di servizi ai sovventori non sono considerate tassabili né sono soggette all'IVA, oltre ad essere esentate da ogni altro tributo. Per cui mi sembra una bella agevolazione. Chiaramente non è che gli eventi devono essere organizzati un giorno sì e l'altro pure, perché e allora bisogna tenere presente che, appunto, si parla di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in occasione, poco radiofonico, ma no, no, ma va bene, ma noi vogliamo capire. In occasione di campagne di sensibilizzazione, ricorrenze. Quindi non dico proprio semelinanno, ma quasi, saltuariamente. Allora, naturalmente, immagino che Laura Pellegrini già sapesse, ma comunque è un'informazione in più. Assolutamente, sì. Molto utile. Allora, ricordiamo, Associazione Giorgetti ha un sito, immagino? Sì, www.associazionegiorgetti.it. andate, se vi sentite pronti per aiutare un preadolescente per seguire naturalmente anche un corso, cliccate insomma, e datevi da fare. Grazie a Laura Pellegrini, buon Natale. Grazie e buon Natale anche a voi. Buon Natale, ma se vi fermate, anche se parliamo di denari, vi fermate? Sì, dai, fatemi questo regalo. Dottor Concari, noi torniamo agli aspetti fiscali più importanti delle donazioni. Che cosa facciamo? Dunque, per le donazioni, per le erogazioni liberali, ci sono delle agevolazioni fiscali abbastanza interessanti. Vale la pena ricordarne almeno due, perché ce n'è una serie veramente abbastanza complessa. Sì. Ne ricordiamo due, quelle dirette alle ONLUS principalmente, cioè alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, attenzione. Sì. E possono queste organizzazioni, anzi i donatori possono utilizzare alternativamente, quindi o l'uno o l'altro, possono utilizzare o l'articolo 35, no, l'articolo 14 del decreto legge 35 del 2005, che viene chiamata più dai meno versi, dove... Ah, bella questa, più dai meno sì, versi, così è molto versi. Chiara, efficace, la capisco anch'io. Sì, un titolo molto, molto accattivante in effetti per una legge. Dove è possibile donare fino ad un massimo di 70.000 euro, quindi parliamo di donazioni importanti, sì. Fino a un massimo di 70.000 euro o comunque non oltre il 10% del reddito imponibile. Quindi significa che io che sono, se fossi particolarmente abbiente, potrei donare fino a 70.000 euro ovviamente se e mi vedrei riconosciuto completamente l'onere sostenuto, e quindi questo mi abbasserebbe il reddito da dichiarare, quindi tassabile. Ed è la norma più premiante, diciamo, per i donatori. Poi c'è la detrazione d'imposta che è prevista sempre per le erogazioni liberali effettuate alle ONLUS, che dal 2015 arriva fino al 26%, cioè consente di risparmiare un risparmio fiscale del 26% della donazione effettuata. Quindi se io dono 1.000 ho una detrazione d'imposta del 26%. Tra le due mi permetto di consigliare la più dai meno versi, quella di cui abbiamo parlato prima. Ci piace perché, già il nome. Ecco, perché matematicamente consente un risparmio fiscale maggiore dal momento che agisce su quella che i tecnici chiamano aliquota marginale, cioè l'aliquota più alta dell'IRPEF, per cui siamo... Noi puntiamo su quella lì, questo è il nostro consiglio, diciamo, di oggi. È più premiale la più dai meno versi, questo sì. Ma noi dobbiamo però dare un'altra raccomandazione. Per avere il risparmio fiscale la donazione deve essere tracciabile, vero Concari? Assolutamente, ecco. Deve essere tracciabile, quindi deve essere effettuata o attraverso bonifici bancari o attraverso carte di credito, di debito, oppure attraverso versamenti effettuati con conti correnti postali. Questi sono gli elementi fondamentali proprio della erogazione liberale per avere poi il riconosciuto risparmio fiscale, altrimenti poi l'Agenzia delle Entrate bastone, insomma. Ecco, si fa sentire. Andiamo a sentire Ugo da Torino, vediamo se riusciamo a dare una risposta al suo quesito. Buongiorno Ugo, buongiorno. Benvenuto. Vi ringrazio, grazie. Ho seguito la vostra trasmissione, veramente interessante. Grazie. Si è parlato di raccolta denaro. Sì. Io sono interessato a sapere come si fa a gestire correttamente da parte di queste associazioni ONLUS o ONG che siano, sì, perché purtroppo non mi risulta ci siano delle metodologie di legge per quanto riguarda la gestione. Ci possiamo trovare con delle associazioni di volontariato, sì, che possono diventare delle aziende dove ci si assume ci si fa assumere e diventano un modo per trovare. Quindi è un lavoro. Po' una. Sì, mascherare ecco, conseguenza se ci sono disposizioni di legge per le quali la trasparenza della gestione sì. tranquillizzano il donatore sul fatto che i soldi devoluti vengono sì spesi per quanto riguarda la parte della gestione amministrativa, io posso capire che ci possa essere una segretaria, eccetera, ma presidenti, direttori, volontari che ricevono degli stipendi, se esiste un parametro che a me risulta forse data dalla CGA di Mestre, dove si diceva che un'azienda che spende di quanto raccolto più del 10% per quanto riguarda gli aspetti amministrativi, sì. se c'è un ricercatore che lavora bene, gli si paghi la borsa di studio, eccetera. Ma se abbiamo tante segretarie, tanti direttori. È chiaro, Fabio, ecco. Scusi, Ugo, dottor Concari. Dunque, nella legge che ha istituito le ONLUS, il decreto legislativo 460 del 97, c'è un limite all'ammontare degli stipendi che possono essere pagati all'interno delle ONLUS e non può essere superiore al 20%, cioè superiore del 20% rispetto a quelli stabiliti dai contratti collettivi di lavoro. Questo è uno. Però poi la questione va vista all'interno dei bilanci di ogni organizzazione. In Italia non c'è un limite prefissato dalla legge in cui si dice l'organizzazione non può spendere più del 10, del 15 o del 20. Non c'è. Del resto è anche difficile andare a stabilire se un'organizzazione è più o meno virtuosa, se spende più del 10, del 15 o del 20, anche perché poi nel bilancio io posso fare qualche artificio e sì. posso spostare quote di costo su dei progetti piuttosto che sull'amministrazione dell'hardware, diciamo. Ecco. Quindi insomma, in sostanza bisogna fidarsi? Bisogna fidarsi, sì, e soprattutto bisogna anche fidarsi della comunicazione che fanno queste organizzazioni, perché è anche vero che se l'organizzazione lavora bene, per diffondere un bilancio non abbellito ma ricco di informazioni in cui si dice abbiamo fatto questo con queste risorse e prossimamente faremo anche di più, allora queste sono organizzazioni probabilmente che possono essere premiate ulteriormente. Allora, insieme al dottor Concari volevamo approfondire altri temi, altri aspetti, ma una domanda tira l'altro. Allora, dottor Concari, lei dovrà tornare perché possiamo parlare anche volevamo parlare del 5 per 1000, ma il tempo è tiranno. Cerchiamo di risparmiare, di avere sempre però un po' di tempo da dedicare agli altri, e così chiudiamo questa trasmissione con gli aiuti. Un augurio del dottor Concari. Dottor Concari, vuole fare un augurio a delle persone che magari così possono in qualche modo essere accarezzate da un pensiero, un'idea, una riflessione? Un regalo ad uno sconosciuto, un augurio. Che tutto possa andare bene, quella è la prima cosa che mi viene in mente. Ma io ho amici che stanno lavorando molto in Sierra Leone per Ebola, contro Ebola, e a loro va sicuramente il mio pensiero. Così come va il mio pensiero agli amici, diversi ma della stessa organizzazione, che lavorano in Afghanistan. Grazie al dottor Concari. Dottoressa Torti, professor Perna, in conclusione lasciamoci con una parola per la vigilia di Natale. Beh, io incoraggio tutti gli ascoltatori ad agire, perché così premiano gli altri e premiano se stessi. E professor Perna? Mi ha rubato quello che volevo dire, per cui essere l'ultimo è difficile. Il concetto è costringetevi a darvi agli altri, così creerete delle abitudini e quindi diventerà tutto più facile. Però come per andare in palestra o fare una dieta bisogna partire, e la partenza è la parte più difficile. Se voi riuscite a partire nella donazione agli altri concretamente, diventerete abitudinari. Allora, speriamo che questa trasmissione abbia fatto mettere la prima a qualcuno di voi e qualcuno di noi. Noi ci sentiamo domani, intanto buona vigilia da Nicoletta e anche da Deborah, che tornerà il 2 di gennaio.